Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. We got to do. Buonasera, buonasera a tutte e tutti lo ascoltatori di Radio Wombat. Oggi è il lunedì 12 febbraio. Siete quindi qui sempre come ogni lunedì su Nervature. Io sono Addu e oggi, come appunto ogni lunedì, vi accompagnerò per circa un'oretta e mezzo. Tuttavia oggi è una puntata un po' diversa, forse lo state già intuendo dalla qualità dell'audio. Ebbene, non sono in diretta ma sono registrata, quindi forse non vi do nemmeno i contatti del pad che servirebbe per parlare in diretta con me, tanto non potrei rispondervi, non in diretta perlomeno, però magari lo potrei vedere dopo il messaggio, quindi come volete. Comunque però vi ricordo invece gli altri contatti alla radio, ovvero siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, ci ascoltate sulle AM alle frequenze 13 e 59, ma altrimenti anche in streaming dal sito radiowombat.net, sito dal quale comunque trovate come sempre anche tutti i podcast di tutte le puntate, di tutte le trasmissioni che pubblichiamo qui alla radio. Dalla sezione contatti poi trovate appunto il pad, ma anche la nostra mail a cui ci potete mandare dubbi, proposte, domande, info, quello che volete, e anche la messaggeria vocale, e tramite cui ci mandate un messaggio vocale che ci arriverà sempre sulla nostra mail, quindi vi risponderemo non in diretta, ma appunto anche questo è un tipo di comunicazione che funziona molto molto bene. Dunque, allora, cosa vi propongo per la puntata di oggi, che come vi preannunciavo è un po' diversa dal solito? Allora, Nervature di solito vi parla di piante e simili, come sapete, ma questa volta così esuliamo un po' dall'argomento, vi parlo però comunque sempre in un certo modo di biologia. Comunque sono sempre argomenti molto molto utili e interessanti entrambi. Quindi oggi praticamente vi rimanderò due video, uno di una conferenza, l'altro di un canale YouTube molto valido secondo me, che parlano di razza. È un argomento veramente a dir poco delicato, però così appunto mi è capitato di vedere, di sentire questi due video e li ho trovati validi appunto, e quindi mi piacerebbe appunto ritrasmetterveli, anche se così ogni tanto si esce un po' dai soliti argomenti, ma perché no? Allora, il primo video è una conferenza all'interno di un festival, penso, di un genetista che si chiama Guido Barbugliani, forse lo conoscete già, genetista che si occupa tendenzialmente di esseri umani, e quindi appunto anche in pubblico fa tanta divulgazione e parla spesso dell'evoluzione dell'essere umano, Homo sapiens, bla bla bla, e anche appunto di razze, e quindi come nel caso della conferenza che vi rimando appunto oggi. L'altro video invece che vi dicevo è di un canale YouTube che si chiama Dazibao. Penso comunque vi metterò i link sul podcast che troverete sul sito, quindi comunque lo ritrovate facilmente. E è un canale che si occupa sempre di Cina, perché il ragazzo che lo tiene è molto appassionato, ha studiato il cinese, lo sa perfettamente, ormai vive lì da un po' di mesi, ma comunque ci aveva già abitato per diverso tempo. E vabbè, nel suo canale in realtà tratta tendenzialmente argomenti di geopolitica, a volte però anche argomenti in cui riprende delle tappe storiche e le spiega, o anche di cultura giapponese, sì, scusate, cinese, aiuto in alcuni casi. Quindi è un po' vario quello che mi piace del suo canale, che racconta magari storie che potremmo anche conoscere qui noi in Occidente, ma siccome ha una visione un po' più a tutto tondo sugli argomenti, riesce a raccontarli un po' da altri punti di vista, quindi sempre molto molto interessante. E il video che vi manderò oggi è anche questo, appunto, sulla razza gialla in particolare, appunto perché lui si occupa di Cina, e sentirete che insomma racconta cose che non credo, probabilmente non avete veramente mai sentito qui da noi in Occidente. Dunque, cercherò di accompagnare comunque con un po' di musica sottofondo per far sì che non diventi troppo noioso. E niente, non mi resta che quindi far partire questi due video. Buon ascolto a tutte e tutti! Bene, buonasera, grazie a Massimo Rossi, grazie a Marco Tamarro per l'invito, grazie a voi che siete venuti a sentirmi. Questa mostra si chiede se la geografia serve a fare la guerra, io non sono così presuntuoso da rispondere, però mi sento di dire che i confini servono sì a fare la guerra. Questa è una storia che conosciamo tutti, Srebrenica, Bosnia. Siamo nel 95, questa è una foto di quelli che stanno scavando e stanno tirando fuori i cadaveri dalle fosse comuni, una vicenda che tutti conosciamo e che non è il caso di descrivere in dettaglio. Quello che forse non tutti sanno è che nel 700, in tutta la zona degli slavi del sud, che andava dalla Slovenia fino alla Bulgaria, si parlava una sola lingua. Era un territorio politicamente diviso tra l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano, poi c'era un piccolo regno del Montenegro già allora, ma si parlava una sola lingua, con naturalmente molte sfumature diverse, però in sostanza un abitante di Lubiana poteva intendersi con un abitante di Varna in Bulgaria, sul Mar Nero. Siamo al Settecento, poi però arriva l'Ottocento, l'epoca degli stati nazionali, e si comincia a definire come lingua, quello che prima era un dialetto. I linguisti dicono che chiunque cerchi di spiegare la differenza fra una lingua e un dialetto non sa di che cosa sta parlando, la differenza è puramente arbitraria. Però forse è lecito dire che una lingua è un dialetto con dietro un esercito, con dietro un progetto politico. Ed ecco che un po' alla volta allora il dialetto di Lubiana diventa la lingua slovena, il dialetto di Zagabria diventa la lingua croata e così via. Se guardate la mappa delle lingue slave del sud di oggi, vedete sei colori diversi e varie intersezioni. Ora, quanto questa mappa abbia a che vedere con le stragi della Bosnia è difficile dirlo, però io credo che non sia, che ci sia un rapporto, insomma, che non sia casuale se nel momento in cui crescono tutti quanti questi confini, che poi naturalmente vengono riportati a un'idea di stato nazionale, di identità, poi incominciano ad accrescersi le tensioni fino a sbocciare in quello che tutti quanti sappiamo. Forse qualcuno sarebbe portato a dire: vabbè, queste sono cose degli slavi, sono cose che fanno loro. Non è vero, non è vero. Anzi, io credo di aver trovato la teoria che sta alla base di queste divisioni in una poesia del nostro Manzoni, Alessandro Manzoni, marzo 1821. Questa, secondo me, è l'ideologia ottocentesca nazionalista. Una gente che libera tutta. O fia serva tra l'Alpe ed il mare. Ne parlavamo prima con Massimo Rossi, dai confini naturali dell'Italia. Una, attenzione che qui c'è la definizione, d'arme, di lingua, d'altare, di memoria, di sangue e di cor. Sangue l'ho messo io in giallo, non l'ha messo Manzoni, perché sangue è quello che oggi diciamo il DNA, no? All'epoca si diceva che certe differenze stavano nel sangue, per dire che ci si nasceva con queste differenze e uno se le portava dietro per tutta la vita. Oggi viene da dire sta nel DNA, ma quando uno dice sta nel DNA vuol dire che è una cosa su cui non ci si può fare niente, è una condanna per che ci portiamo dentro dal momento in cui lo spermatozoo del papà ha secondato l'uovo della mamma e che trasmetteremo ai nostri figli. Questo è il concetto moderno, direi, di razza, per quanto si possa dire. Il sangue, quindi, come un liquido identitario che ci caratterizza e ci caratterizza in modo che noi non possiamo modificare, non è una nostra scelta, c'è qualcosa dentro il nostro sangue e c'è poco da fare. E dentro il nostro sangue naturalmente c'è l'identità razziale, come si diceva prima. Ci sono tante belle rappresentazioni dell'idea di razza umana, ho scelto questa che risale agli anni 30, perché oltre a presentarvi questo bell'albero con colori che corrispondono ai colori della pelle, come vedete, in testa, in cima a tutti quanti, mette un signore che assomiglia un po' a tutti noi, un europeo, un bianco. Ho scelto questa immagine perché in tutti questi sistemi di classificazione razziale, ne vedremo parecchi nel corso del pomeriggio, c'è sempre un'idea di confronti di valore. Non sono mai degli strumenti neutrali che cercano soltanto di fotografare le nostre differenze. Partono dalle nostre differenze, ed è di quello che parleremo poi per tutto il giorno, ma poi arrivano a descrivere delle gerarchie di valori. Allora, io mi rendo conto, scusatemi, che per riuscire a impostare bene questo discorso, adesso dovrei cercare di definire cos'è una razza, ma è complicato, allora cerco di cavarmela con due esempi, anche se dopo vedrete che troveremo una definizione a un certo punto di questa chiacchierata. Due esempi presi dal mondo naturale, perché non siamo soli nell'universo, ci sono centinaia di migliaia, forse milioni di altre specie, anzi sicuramente milioni di altre specie, e quindi possiamo andare a vedere in queste specie come sono le differenze tra i diversi individui. Parlare di razza, parlare di biodiversità con un termine più moderno, significa ragionare su quello che ci rende simili e quello che ci rende diversi dagli altri. Allora, una specie in cui sicuramente è possibile parlare di razza è quella degli scimpanzé, che tra l'altro sono i nostri parenti evolutivi più prossimi, no? Abbiamo un antenato comune con loro 6 milioni di anni fa, mentre con gli altri mammiferi abbiamo antenati comuni più remoti e abbiamo antenati comuni con tutti quanti, insomma anche col virus del raffreddore, insomma abbiamo evidenze, il fatto che usiamo lo stesso DNA nello stesso modo, che ci indicano come in un passato molto remoto, forse 3 miliardi di anni fa, anche noi e i virus avevamo un antenato comune. Gli scimpanzé sono divisi oggi in due specie, uno si chiama scimpanzé pigmeo o bonobo, l'altro invece si chiama scimpanzé comune, quindi lasciate perdere la macchia rossa qua che rappresenta gli scimpanzé pigmei, ma gli scimpanzé comuni sono divisi in quattro gruppi che in questa mappa sono rappresentati da colori diversi. Se date a un esperto di scimpanzé un pezzo del DNA di un individuo di origine sconosciuta, l'esperto ve lo sa piazzare con il 99,9% di precisione nel territorio di origine. Quindi quando abbiamo dei gruppi così distinti che è possibile assegnare a ogni individuo con pochissimo errore il territorio di origine, lì si parla biologicamente di sottospecie o razza. La sottospecie in azzurro, che è la sottospecie Liotti, e quella verde sono separate soltanto da un fiume, quella sottile riga bianca che forse nelle prime file si riesce a vedere, è il fiume Sanaga. Però evidentemente questo fiume è considerato dagli scimpanzé una barriera forte, perché quelli al di sopra, a nord del fiume, sono fatti in un certo modo e quelli al di sotto hanno tutti delle caratteristiche nel DNA diverse. Quindi qua ci sono quattro sottospecie, quattro razze, non lo discute nessuno. Siamo tutti come gli scimpanzé? No, non siamo tutti come gli scimpanzé. Per esempio, il tonno pinna gialla, da stasera forse guarderete in maniera diversa la scatoletta di tonno che aprite per cenare. Il tonno pinna gialla, che ne approfitto anche per chiarire un equivoco, è il tonno meno pregiato di tutti, non il più pregiato come cercano di vendervelo. Il tonno pinna gialla è diffuso nei tre oceani principali. Ma se ne pescate uno, anche il più grande esperto mondiale di tonni non vi sa dire se questo qua proviene dall'Oceano Indiano, Pacifico o Atlantico. Perché lì, invece, il DNA è completamente sovrapposto. Adesso non ve lo sto a dimostrare, ma forse insomma, vi butto lì un'idea. Questi qua sono animali che viaggiano molto velocemente, vanno a 70 all'ora nell'oceano se vogliono, e naturalmente non stanno mai fermi. Quindi una struttura di questo genere, una situazione in cui non ci sono le razze, è tipica di creature molto mobili, per esempio molti uccelli e molti pesci marini. Viceversa, gli scimpanzé vanno anche in giro durante la giornata, ma tendono a tornare sempre agli stessi posti. Quindi, mettiamoci d'accordo sul fatto che tipicamente delle specie poco mobili si suddividono in gruppi distinti che a un certo punto possiamo chiamare razze. Le tartarughe hanno le razze, le lumache, altri animali non noti per la loro rapidità di movimento, hanno le razze. E quindi adesso si tratta di capire noi come ci collochiamo in questo gioco. Siamo più vicini ai tonni pinna gialla o più vicini agli scimpanzé? Beh, cominciamo col dire che intanto siamo tutti diversi. Non siamo tutti uguali. Non solo siamo tutti diversi, come dimostra chiaramente la rassegna di facce che ho davanti questa sera, ma in molti casi è anche possibile dire, guardando una persona, qual è il suo continente d'origine. In molti casi, non tutti. Ma è chiaro, insomma, che questo signore a destra è di origine europea, è chiaro che la ragazza sotto di lui è africana. Magari non è facile capire da che parte dell'Africa venga. Poi, procedendo verso sinistra, avrete forse riconosciuto il caro leader Kim Jong-un coreano. La ragazza sulla sinistra si è messa addirittura un fiore tra i capelli, se non bastasse il suo aspetto a farvi capire che è polinesiana. E quel ragazzino con i bastoncini che gli escono dalle guance è uno Yanomama, fa parte di una popolazione che vive al confine tra Brasile e Venezuela, molto studiata dagli antropologi negli anni 70. Newton Morton, che era un famoso genetista, che è un famoso genetista e che come tutti i genetisti ce l'ha un po' con gli antropologi, diceva che la famiglia, il nucleo familiare tipico Yanomama è costituito da padre, madre, due figli e due antropologi, perché i loro villaggi erano invasi da questi americani che li fotografavano. Bene, quindi, come vedete, c'è una certa corrispondenza tra l'aspetto delle persone e la regione d'origine, però ci si sbaglia molto facilmente. Ci sbaglia molto facilmente, perché dipende dalle nostre esperienze e i nostri pregiudizi. A me una volta hanno chiesto se ero cinese in Etiopia, perché la signora aveva visto solo africani e cinesi e io le sembravo cinese. Guardate per esempio questa ragazza in alto a sinistra, labbra grosse, pelle nera, capelli molto scura, capelli crespi, sembrerebbe tipicamente africana. No, è asiatica, viene dalle isole Andamane e c'è tutta una fascia dell'Asia del sud-est che è abitata da persone così. Quindi è chiaro che le differenze ci sono, è chiaro che le vediamo, è chiaro che contengono anche un po' di informazione sulla nostra origine geografica, ma il problema è appunto dove tracciare i confini, dove cominciano quelli fatti così e dove finiscono quelli fatti cosà. E questo è il punto contro cui si scontrano regolarmente, a partire dal Settecento, tutti quelli che cercano di fare il catalogo delle razze umane. Dal Settecento a oggi, anche lasciando perdere i tentativi dei pazzi che pure ci sono stati, hanno portato a pubblicazioni, ad articoli su riviste e a libri, considerando solo i tentativi degli scienziati seri, e ne vedremo alcuni che sono davvero molto seri, l'unico elemento comune a tutti i cataloghi razziali che sono stati proposti è che ognuno è in contraddizione con tutti gli altri. Quindi le differenze ci sono, ma poi ognuno le descrive a modo suo. E invece dai tempi di Galileo noi sappiamo che un approccio può essere considerato scientifico solo se ricercatori indipendenti con gli stessi dati arrivano alle stesse conclusioni. Quindi qualcosa nel progetto di classificare le razze umane non funziona. Ma andiamo con ordine, cominciamo dal primo che le classifica in maniera molto, molto seria. Questo, vedrete, è una specie di hit parade dei grandi naturalisti del 7 dell'Ottocento. E uno dei più grandi, forse il secondo più grande dopo Charles Darwin, era Carlo Linneo, svedese. Il ricercatore che a partire dalla metà del Settecento incomincia a dare nome e cognome, genere e specie a tutti gli animali e alle piante conosciute all'epoca. E questo suo grande progetto di catalogazione va avanti anche oggi e ogni volta che si scopre un nuovo insetto, una nuova pianta, gli si attribuisce un nome, un cognome, genere e specie secondo i criteri che Linneo ha reso standard nel Settecento. Linneo pubblica varie edizioni del suo libro Il sistema delle nature. Il primo era di 13 pagine, l'ultima edizione di oltre 3.000, quindi si espande attraverso il tempo. Nella decima edizione si decide a pubblicare una lista delle razze umane. E ne indica 6, due delle quali molto strane, se volete poi ne riparliamo, ma sostanzialmente 4. E 4 perché 4 sono gli elementi della filosofia greca classica, aria, acqua, terra e fuoco. Cosa c'entra, direte voi? Non c'entra niente. Non c'entra niente, non c'è nessun motivo al mondo per cui l'umanità debba essere divisa in gruppi che corrispondono agli elementi della filosofia greca classica. Ma questo a indicare che anche i grandi scienziati, quando non si sta parlando di una mosca o di un pesce, ma di noi, si lasciano distrarre da questioni che non c'entrano a niente. Le quattro razze di Linneo corrispondono ai quattro continenti più conosciuti all'epoca. L'Australia era davvero poco conosciuta. Ma qualche tempo dopo, alla fine del Settecento, Blumenbach, che era un medico tedesco e che studiava la collezione di crani del museo di Tubinga, dell'università di Tubinga, propone un sistema a 5 razze e le classifica su base estetica. le classifica su base estetica, perché lui dice, ma insomma si vede, no? Se uno guarda questi crani, e ce ne sono di belli, ce ne sono di più brutti, ce ne sono alcuni che sono davvero molto molto brutti. E i più belli di tutti, indovinate quali sono? Sono i nostri, sono quelli europei, e quindi lui mette all'origine la razza bianca, che poi è degenerata dando origine, secondo lui, agli americani e agli asiatici. Gli indiani d'America sono molto popolari in questi cataloghi razziali, sono sempre i migliori dopo gli europei. Evidentemente questo fatto che andavano a cavallo, così, insomma, gli dava una nobiltà che non ci sentivamo di attribuire, per esempio, agli africani. E i più brutti di tutti, secondo Blumenbach, sono gli australiani e gli africani. Quindi lui vede un processo di degenerazione. E siccome il cranio più bello di tutti apparteneva a una donna della Georgia, lui dice, vabbè, insomma, il Caucaso è il posto da cui hanno avuto origini i più belli di tutti, non a caso lì si era nata l'Arca di Noè. E quindi lui si inventa la parola caucasico, che è sinonimo di europeo, sinonimo di bianco, e che sentite qualche volta in qualche telefilm americano, perché questo sistema di classificazione si è mantenuto. Cuvier è il padre dell'anatomia comparata, e lui dice, ma no, non facciamola troppo complicata, bianchi, neri e gialli. E con questo tema si cimenta anche niente poco di meno che Immanuel Kant, il quale scrive delle pagine profondamente razziste che mi fanno un po' impressione a leggerle adesso, e propone un sistema a quattro razze diverso da quello di Linneo, perché per Kant sono molto importanti i calmucchi. I calmucchi, vabbè, pazienza, ce l'aveva con i calmucchi. Cosa succede nel frattempo? Succede che i navigatori navigano, i viaggiatori viaggiano, gli esploratori esplorano, tornano a casa con descrizioni di popolazioni che non si riesce a far stare all'interno delle razze conosciute in precedenza. E allora il catalogo delle razze incomincia ad estendersi, ad espandersi, e se ne inventano sempre di nuove. Nel Novecento questo signore, un tedesco, un antropologo, un medico tedesco, si chiamava von Eichstädt, propone un sistema a 37 razze, quel numero che vedete è il numero di razze proposte. E qui forse è la prima carta geografica massimo che faccio vedere. E vedete, si sforza di dividere l'Europa in gruppi razziali. E da questa carta, secondo me, da questa mappa, è evidente lo sforzo. Perché una mappa sembra una pelle di leopardo, in cui all'interno di ciascun colore ci sono dei sottocolori più piccoli. Ci sono delle cose molto molto strane, perché vedete c'è una punta, per esempio, che arriva in Campania, secondo me nel Beneventano, poi vi dico perché, che apparenta gli abitanti di questa zona con gli italiani del nord. Forse perché a Benevento c'erano i Longobardi, e quindi von Eichstädt ne ha tenuto conto. Ma si capisce bene che c'è un grande sforzo, uno sforzo che non dà dei grandi risultati, peraltro, di suddividere in gruppi omogenei al loro interno e diversi fra loro l'umanità. Ma siamo soltanto all'inizio della storia. Nel 1933 a Chicago fanno l'Expo, l'Esposizione Universale. E il Museo Fields di Storia Naturale chiede a questa scultrice di New York, che si chiamava Malvina Hoffman, di produrre delle statue a grandezza naturale, le vedete lì sotto, che rappresentino le razze dell'umanità. Malvina Hoffman è una persona seria e dice, ma io non posso farlo così, devo girare il mondo, devo rendermi conto. E quindi per 2 anni viaggia accompagnata dagli antropologi del museo e, tornata a casa, produce 103 statue differenti. Nel Novecento compariranno dei sistemi di classificazione razziale con 200 razze diverse. È chiaro allora che dire che ci sono 200 razze oppure dire che non ci si capisce più niente è quasi la stessa cosa. E effettivamente qualcuno incomincia a protestare, qualcuno incomincia a dire, ma guardate che stiamo perdendo del tempo, stiamo cercando di classificare l'inclassificabile. Questa cosa la dice nel modo più chiaro di tutti un antropologo americano, si chiamava Frank Livingstone, che scrive un articolo molto bello di 3 pagine, lo faccio leggere ai miei studenti, che è pubblicato nel 61, che si intitola Sulla non esistenza delle razze umane. Ecco, qui comincia un gioco diverso, perché da questo momento in poi diventa possibile studiare le nostre differenze, la nostra biodiversità, secondo quello che si chiama un paradigma diverso, un modo diverso di guardare alle cose. E vedrete molto più fruttuoso il modo che ci ha permesso di ricostruire episodi della nostra vicenda evolutiva, della nostra preistoria, che non stavano scritti da nessuna parte e che altrimenti non saremmo riusciti a riconoscere. Non so se riusciate a leggere queste cose, ma vi dico quello che dice Livingstone, perché è importante. Lui dice, io non sto dicendo che non ci sono differenze biologiche tra gli organismi che fanno parte di una specie, ma soltanto che questa variabilità non si conforma ai pacchetti discreti, distinti, chiamati razze. Pacchetti sono quelli dentro cui comprate i telefonini. Se c'è scritto Nokia, vuol dire che dentro c'è un telefonino Nokia. Se c'è scritto Samsung, vuol dire che dentro c'è un telefonino Samsung. Non avete delle scatole in cui c'è 20% Samsung, 8% Motorola, 12% Nokia e altri nomi non mi vengono in mente. Ecco, Livingstone dice in pratica non siamo fatti così. La sua posizione, dice nelle ultime righe, può essere riassunta in altre parole dicendo non ci sono razze, ci sono soltanto sfumature. Sfumature in una tavolozza. Una tavolozza continua. Perché dicevo che questa è una posizione più fertile? Perché da questo momento in poi questa orgia di classificazioni, che non ha portato da nessuna parte, lascia spazio invece alla comprensione che le nostre differenze sono di natura quantitativa, sono sfumature all'interno di una variabilità continua. E quello che capisce meglio di tutti questa cosa è un italiano, Luca Cavalli Sforza, e vi presento queste mappe. Questi colori rappresentano i livelli di somiglianza e di dissimiglianza genetiche tra varie popolazioni del mondo. In alto vedete la copertina di Science, è un'immagine commovente per noi genetisti, perché lui è riuscito con un software della NATO nel 1978 a fare queste mappe che comparivano sullo schermo del computer. All'epoca molti computer non avevano lo schermo, avevano un lettore di schede e stampavano della carta, e hanno piazzato davanti allo schermo una macchina fotografica con la pellicola, hanno premuto l'interruttore e hanno fatto la foto dello schermo del computer. Tutte cose che oggi noi facciamo in un secondo ad alta fedeltà, loro l'hanno fatto così. E vedete che in qualche modo nei lavori di Cavalli Sforza compare questa idea che le differenze sono una questione di sfumature. In parte oggi questi risultati vanno un po' aggiornati, ma in parte sono ancora molto utili, molto importanti. Però quest'idea dell'umanità come un'entità non divisa, non suddivisa da confini, ma in cui invece le cose cambiano in maniera molto graduale, e capendo come cambiano capiamo anche la nostra storia, da quel momento in poi comincia a prendere piede. E però insomma, da quando Livingstone fa la sua proposta non è che tutti ci stiano subito. Il tentativo più radicale di semplificare le cose è dovuto a questo antropologo americano, Carlton Coon, che era, penso di poterlo dire, un razzista scatenato. Un mio amico una volta lo trova a un congresso, si stanno lavando le mani, sono in bagno, e Coon gli dice: guarda che in quel lavandino si è lavato le mani un negro. Come dire, non lavartele tu, aspetta che abbia finito io. Insomma, questo era Carlton Coon. Carlton Coon però era un bravo scienziato. Sono possibili anche queste cose. E capisce che non si può andare avanti con la moltiplicazione delle razze, propone una semplificazione radicale in cui ci sarebbero 5 razze in tutto. Naturalmente queste razze, come le altre, sono arbitrarie, ma Coon ha capito una cosa, che l'Africa non è un continente come tutti gli altri. E infatti le sue 5 razze non sono le 5 razze di Blumenbach, una per continente. Lui divide l'Africa in 3 regioni. Una in cui ci sono quelli con la pelle scura, che li chiama congoidi, una nel sud in cui ci sono popolazioni con la pelle più chiara, gli occhi a mandorla, sono quelli che si chiamavano boscimani o tentotti all'epoca e che indubbiamente sono molto diversi, oggi lo sappiamo geneticamente, dagli altri africani, e nella parte nord, lui dice, c'è della gente che è apparentata più agli europei che agli altri africani. Quindi Coon capisce alcune cose importanti e Coon ci dà però una definizione, ve l'avevo promessa, di razze, che è quella che è evidentemente fallita attraverso i secoli, quella che nessuno è mai riuscito a rispettare. Lui dice: una sottospecie soddisfa 2 condizioni, occupa un territorio geografico distinto e differisce da altre sottospecie, da altre razze, in modo considerevole per caratteristiche misurabili. Il problema è che loro all'epoca cosa misuravano? Avevano i crani, misuravano la lunghezza, la larghezza, l'angolo del naso, delle quantità che sono molto molto plastiche, cambiano moltissimo tra padre e figlio, tra nonni e nipoti. Non avevano degli strumenti potenti di analisi. Questi strumenti sono arrivati dopo. Sono arrivati dopo, però, già tra chi padroneggiava alcuni di questi strumenti. Questo è un grande genetista, Dobzhansky, nato in Russia, poi ha lavorato negli Stati Uniti d'America. Anche grandi genetisti, di fronte alla proposta di Livingstone di abbandonare radicalmente il concetto di razza, puntano i piedi. Ma Dobzhansky era bravo anche perché aveva capito che quando parliamo delle nostre differenze si mescolano sempre il piano dell'analisi scientifica vera e propria e il piano invece dei nostri pregiudizi, dei nostri giudizi sociali, politici. E quindi scrive un libro che si chiama Diversità genetica e uguaglianza umana, è tradotto da Einaudi in italiano, in cui lui dice in sostanza i nostri comuni diritti ci derivano dal fatto che siamo tutti quanti umani, non dal fatto che siamo tutti quanti uguali. Abbiamo uguali diritti perché siamo tutti quanti umani. Però, dice Dobzhansky, io credo che le razze ci siano. Ammette che non siamo ancora riusciti a descriverle per bene. ma si dichiara fiducioso, scrive alla fine degli anni 60, che i futuri sviluppi tecnologici permetteranno agli scienziati e all'umanità di capire finalmente quali siano le razze umane. Bene, la buona notizia che vi porto è che noi viviamo nel futuro. Noi viviamo nel momento in cui possiamo verificare se avesse ragione Dobzhansky o se aveva ragione Livingstone quando diceva che era il caso di abbandonare il concetto di razza per l'uomo e non per tutte le specie. E viviamo nel tempo del DNA. È un momento di grande entusiasmo che rasenta la sbornia per noi genetisti. Vi do soltanto un dato giusto per capire come sono cambiate le cose. Nel 2003 è stato letto per la prima volta tutto il DNA di un membro della nostra specie. Lo vedremo tra un attimo. È stata un'operazione che ha richiesto il contributo di circa 13.000 scienziati, è costata 2 miliardi e mezzo di dollari ed è durata un decennio. Oggi la stessa informazione viene prodotta al costo di 1.000 dollari, quindi 1.000 euro, visto che ormai siamo arrivati alla parità col dollaro, da un tecnico, e bisogna aspettare 15 giorni semplicemente perché nei laboratori dove fanno questi esperimenti c'è una coda di 2 settimane prima che il tuo campione possa entrare nelle macchine. Questo ha portato a una proliferazione di dati enorme. Ahimè, non ad un altrettanto grande miglioramento della nostra capacità di capire cosa ci dicono questi dati. Ed è per questo che non abbiamo ancora curato il cancro, che non abbiamo ancora curato il diabete, che non abbiamo ancora curato le malattie neurodegenerative, insomma, ce n'è ancora tanta da fare. Però la quantità di informazioni di cui disponiamo è enorme. E la cosa di cui ci occupiamo è il complesso del DNA delle cellule, che si chiama genoma. Quindi il genoma è tutto il DNA che sta in ciascuna nostra cellula. Voi non sapete il giapponese, immagino, ma vedete DNA, i giapponesi lo dicono come noi. E qui vorrei dirvi due cose che non sono affatto in contraddizione l'una con l'altra. La prima è che il nostro genoma è molto piccolo. Una cellula, ci sono tipo 20 cellule in pila nello spessore di un'unghia. Dentro la cellula c'è qualcosa di ancora più piccolo che si chiama nucleo, dentro al nucleo ci sta il DNA che quindi è ancora più piccolo. Ma al tempo stesso il nostro DNA è molto grande, molto grande. È stato paragonato a un testo. Ed effettivamente è una metafora che funziona, è il libretto di istruzioni delle nostre cellule. E in ognuna delle nostre cellule è presente questo testo di cui conosciamo l'alfabeto, perché ci sono 4 molecole nel DNA che si ripetono e le abbiamo indicate con le lettere A, C, T e G. Quindi di questo testo conosciamo l'alfabeto, lo possiamo leggere, e gli esperimenti di cui vi parlo sono esperimenti appunto in cui si va a leggere la successione, la sequenza di queste A, C, T e G nel nostro DNA. Ne comprendiamo anche bene la grammatica, cioè il funzionamento dei singoli geni, che sono 22.000 nell'uomo circa. Quando lavorano da soli noi sappiamo bene che cosa fanno. Quello che non capiamo, ed è per questo che non siamo riusciti a predire il cancro né a curarlo naturalmente, per questo che non riusciamo a fare i conti con le malattie più complesse, quello che non capiamo è la sintassi di questo testo. Sintassi vuol dire come i diversi geni interagiscono fra di loro e interagiscono con i tantissimi fattori dell'ambiente, dalla dieta alle abitudini di fumare, alla temperatura, tutto quello che vi può passare per la testa, che alla fine producono quello che siamo. Quindi lì c'è ancora molto lavoro da fare, ma il testo almeno riusciamo a leggerlo completamente. Quanto è lungo questo testo? È lungo 6 miliardi e mezzo di caratteri. Vedo qualcuno che fa segno di sì con la testa, però secondo me non ci siamo ancora capiti. Allora, vi do un altro dato. Secondo i miei calcoli approssimativi, i Promessi Sposi hanno 1 milione di caratteri. Ho preso 3 capitoli, li ho messi dentro a Word, li ho fatto contare i caratteri e poi ho fatto la proporzione. Questo significa che in ciascuna nostra cellula, che è grande un ventesimo di millimetro, il libretto di istruzioni è equivalente a 6.500 volumi dei Promessi Sposi, in ciascuna nostra cellula. Come faccio la cellula ad andare ad aprire alla pagina giusta e trovare la riga giusta nel giro di secondi o di minuti, non lo sa nessuno. Questa è un'altra cosa che ci piacerebbe scoprire. Però tutto questo enorme testo era accessibile solo in parte fino a qualche tempo fa, adesso abbiamo incominciato a leggerlo integralmente. E vi faccio vedere 3 cose in tutto che abbiamo letto in questo testo e che ci sono utili per la discussione di oggi, per capire appunto come sono fatte le nostre differenze. La prima cosa è che se prendiamo europei, asiatici e africani, ho semplificato qui, insomma si potrebbe fare un ragionamento più complesso con gli altri continenti, e vediamo cosa hanno in comune, salta fuori che oltre l'80% delle varianti del nostro DNA sono presenti in tutti i continenti, sono cosmopolite, si dice così. a frequenze diverse. Io, per esempio, sono di gruppo sanguigno zero, come molti di voi, e questa è una caratteristica cosmopolita. Se di uno sapete che è di gruppo sanguigno zero, voi non avete idea di quale sia il continente da cui ho avuto origine. Se invece uno è di gruppo sanguigno B, allora potete escludere che sia un indigeno australiano o che sia un indigeno americano. È già qualcosa. Le caratteristiche cosmopolite sono più dell'80% delle caratteristiche variabili nel nostro genoma. Quello 0,06% in Europa significa che è praticamente impossibile, è rarissimo trovare qualcuno che ha un DNA proprio europeo. E quell'1% in Asia significa anche questo, che, insomma, che in Asia c'è pochissimo di veramente asiatico. È diverso l'Africa, vi ho detto che l'Africa non è un continente come tutti gli altri, quel 7% ci indica che ci sono delle caratteristiche del DNA che troviamo soltanto in individui africani. L'avevo un po' capito anche Kuhn. Da questo schema mi viene in mente che la differenza principale tra le nostre caratteristiche genetiche è tra quelli che sono tipicamente africani, quel 7% lì, e gli altri che sono genericamente umani. Questo è il modo in cui io riassumerei questo dato. Se andiamo a vedere poi quali sono le differenze all'interno delle popolazioni, ecco che si capisce un'altra cosa importante. Facciamo conto che sia pari a 100 la differenza fra un africano e un europeo, fra un europeo e un asiatico, fra un asiatico e un africano. E chiediamoci allora, ma quanto è grande la differenza fra me e il mio vicino di casa? Per esempio fra Nanni Moretti e Renato Carpinteri, che vedete a bordo di questo APE, che in qualche modo rappresenta anche il superiore sviluppo tecnologico dell'Europa rispetto all'Asia, dove vanno in bicicletta, e all'Africa, dove, come vedete, vanno ancora a piedi. Bene, se poniamo pari a 100 la differenza tra noi e la persona che ci è più diversa sulla faccia della Terra, la differenza fra noi e un abitante della nostra stessa città non è 10 o 20, come verrebbe da pensare, bensì 88, in media. Significa che forse a Treviso un po' meno, ma se prendete una cittadina dell'Africa qualunque, c'è l'88% della variabilità di tutta l'umanità. Quindi un altro modo per raccontare questa storia è dire che se si estingue tutta l'umanità tranne una cittadina dell'Africa, perdiamo il 12% delle nostre differenze e salviamo l'88%. Non è un buon motivo per andare a cuor leggero verso l'Olocausto, ma è giusto per capire che cosa succede. Attenzione, questi calcoli sono fatti su popolazioni di interesse antropologico, non vanno a studiare Parigi, non vanno a studiare Milano, non vanno a studiare Rio de Janeiro, vanno a studiare piccole popolazioni isolate che si presume conservino caratteristiche più antiche. Ma in una città come Londra, come New York, come San Paolo del Brasile, è probabile che ci sia il 99% di tutta la variabilità della specie. Terza cosa che vi voglio fare vedere è un confronto fra i genomi completi, tre casi in cui si è andato a leggere tutto il DNA, quasi tutto il DNA, di tre persone diversamente famose. Questo in basso lo vedete, l'avete sentito nominare, si chiama James Watson, Watson e Crick, è quello che ha scoperto con Francis Crick e Rosalind Franklin, che è morta prima che le dessero il premio Nobel, la struttura doppia elica del DNA. James Watson, detto Jim, è uno che non la manda a dire, come si dice. Una volta ha dichiarato che bisognerebbe che un genio regalasse all'umanità il proprio DNA, in modo che in futuro si possa scoprire in questo DNA le basi biologiche delle prestazioni intellettuali eccezionali. Vi do il mio. E il DNA di James Watson è stato il primo a essere letto e pubblicato in maniera quasi integrale. Dico quasi integrale perché ci sono delle regioni del DNA che sono tecnicamente difficili da studiare, ma stiamo parlando del 99%. Qualche anno più tardi, questo signore sulla sinistra, che si chiama Jim Venter, è un altro famoso genetista, ha letto completamente il proprio DNA, praticamente a casa sua, perché è ricchissimo, ha costruito delle compagnie, delle ditte, insomma, che si occupano di queste cose. E Venter, tanto per non essere da meno di Watson, ha deciso di chiamare il proprio DNA DNA umano di riferimento. Sono persone che non hanno problemi di autostima, come vedete. E qualche tempo dopo è stato questo coreano che si chiama Kim come la quasi totalità dei coreani naturalmente, che ha pubblicato in un altro studio il proprio DNA, ma ha anche fatto dei confronti tra più individui diversi. Attenzione, quello che vi faccio vedere è un caso limite, non è il caso normale, non è la norma. Però vi fa capire in maniera definitiva, io credo, perché sia il caso di smetterla di parlare di razze umane. Quando si vanno a vedere, a confrontare questi tre DNA, si scopre che i tre hanno 1.250.000 varianti in comune. Vabbè. Poi ognuno di loro ha delle cose che gli altri due non hanno. Ma la cosa più interessante è quello che hanno in comune a due a due, perché Watson e Venter sono entrambi americani di origine europea e si vede. Magari Kim non capiamo subito che è coreano, ma si capisce che è asiatico. Eppure Venter e Watson hanno meno in comune fra di loro di quanto ciascuno di loro abbia in comune con Kim. 460.000 varianti contro 480.000 fra Venter e Kim e addirittura 570.000 fra Watson e Kim. Quindi se dovete prendere in blocco i DNA di queste tre persone e raggrupparli, la cosa più probabile è mettere insieme Kim con Watson escludendo Venter. La seconda più probabile è Kim con Venter escludendo Watson e la più improbabile di tutti è Watson insieme a Venter escludendo Kim. Attenzione, non è sempre così. Mediamente il nostro vicino di casa, lo dicevamo prima, è del 12% più simile a noi dell'abitante di un altro continente. Ma come vedete le differenze possono essere molto grandi nelle popolazioni e ci sono un sacco di persone che sono molto diverse. Quindi anche l'ultima scusa per il mantenimento degli stereotipi razzisti, quella che ogni tanto tirano fuori dei medici americani che sono ancora molto, molto fissati sul concetto di razza. Io guardo un paziente e guardandolo dal suo aspetto riesco ad escludere alcune malattie e ne considero delle altre. Non è vero, non funziona. Non funziona. Watson e Venter sono più diversi fra di loro di quanto ciascuno di loro sia simile a Kim. Quindi fine della storia, perlomeno per quanto mi riguarda. Forse questa, che è l'opera di un artista, è un'artista brasiliana che si chiama Angélica Das, è la rappresentazione più seria delle nostre differenze. Vedete una serie di persone fotografate di fronte a un muro, a una parete che ha lo stesso colore della loro pelle e ci sono questi schemi che sono quelli usati dai pittori, dagli bianchini. E per ciascuna di queste persone c'è un'indicazione del colore a cui la sua pelle appartiene. Quindi non c'è dubbio, insomma, che siamo più vicini ai tonni che agli scimpanzé. Non siamo come i tonni, però, perché i tonni davvero non si capisce da dove vengono. Noi, insomma, i tonni hanno un 1% di differenza fra popolazioni, noi ne abbiamo il 12%, quindi siamo più variabili dei tonni. Gli scimpanzé hanno il 60-70%. Bene. Come è andata, allora? Se non vi dispiace, ci sto mettendo troppo, forse sì. Vi racconto in quattro immagini la storia dell'umanità. Mi direte, ma sei pazzo? Forse. In realtà però questa operazione è quella che fanno gli scienziati ogni volta che si trovano a dover descrivere un fenomeno complesso. Ci sono fenomeni così complicati, e ammetterete che la storia dell'umanità è complicata, che noi non riusciamo a pensarli, troppo complessi. E allora cosa si fa? Si eliminano tutti quelli che consideriamo elementi secondari e si arriva ad una visione essenziale che chiamiamo un modello. In questo senso tutti i modelli sono sbagliati, perché trascurano un sacco di cose che effettivamente sono successe. Però alcuni modelli possono essere utili, se ci permettono di pensare fenomeni che altrimenti non saremmo in grado, per la loro complessità, di pensare. Quindi questo è un modello, e secondo me questo modello spiega abbastanza bene le cose che ci siamo detti fino ad adesso. Questo modello comincia 100.000 anni fa, e 100.000 anni fa i nostri antenati sono rappresentati da quei pallini colorati in Africa, colorati in colori diversi perché erano già diversi biologicamente l'uno dall'altro. In Europa c'era Neanderthal, in Asia c'erano due o tre specie umane differenti, ma non sono loro i nostri antenati e quindi non li rappresentiamo in queste immagini qua. Stavano in Europa, ma i nostri antenati 100.000 anni fa stavano in Africa. Non se la passavano molto bene. L'agricoltura la inventiamo 10.000 anni fa. Prima di allora non eravamo in grado di produrre il cibo, dovevamo procurarcelo cacciando o raccogliendolo. E sappiamo, perché ancora oggi ci sono popolazioni che vivono in questo modo, che queste popolazioni si spostano in continuazione. Vanno via dai posti dove si sono trovati male e cercano nuove risorse, quando le hanno consumate vanno da un'altra parte. E quindi gira e gira, intorno a 70.000 anni fa vedete che sono arrivati a occupare un'area più ampia dell'Africa. E vedete anche che sono comparsi pallini di colori diversi, perché c'è un fenomeno naturale, si chiama mutazione, che genera in continuazione nuove varianti genetiche. Intorno, diciamo, a 60.000 anni fa, qualcuno è arrivato dalle parti dell'Egitto. E vedete, sono dei pallini gialli e verdi, mentre altri pallini, che ho arbitrariamente colorati in azzurro e rosso, sono andati da altre parti. E qualcuno passa di là. Intorno a 60.000 anni fa abbiamo le prove archeologiche che qualche africano, qualcuno come noi, è uscito ed è finito in Palestina, nel Medio Oriente. E lì le cose cambiano. Cambiano perché ci sono più risorse, la regione è sostanzialmente spopolata, C'è qualche Neanderthal, ma erano persone per bene e ce ne sbarazziamo molto, molto rapidamente. E lì succede una cosa che Charles Darwin, che pure non sapeva niente del DNA, che sapeva malapena che esistevano le proteine, aveva già capito, perché era il più bravo di tutti e le cose le capiva prima degli altri. Quando ci sono molte risorse, la mortalità infantile si abbassa e quindi il numero di bambini che arriva all'età della riproduzione, 14-15 anni a quell'epoca, è superiore. E questi bambini faranno dei figli che a loro volta avranno una probabilità maggiore di arrivare a riprodursi. Nel frattempo i vecchi vivono più a lungo, la popolazione cresce. Ma attenzione, che quelli che crescono non sono tutti gli africani, sono solo quegli africani arancioni e verdi che sono passati, che hanno avuto la fortuna di passare in Medio Oriente. E quindi quando arriviamo a 10.000 anni fa e tutto il vecchio mondo ormai è popolato, come vedete fuori dall'Africa ci sono pallini gialli e verdi, arancioni e verdi soprattutto, più qualche pallino di altri colori perché anche lì c'è stata qualche mutazione. Mentre in Africa c'è un repertorio completo di tutta la variabilità umana. Se è così, e io credo che sia andata veramente così, allora ci spieghiamo come mai è stato impossibile, anche per scienziati molto bravi, definire le razze umane e come tracciare delle linee sulla mappa della variabilità umana, si sia rivelata una missione impossibile a cui nessuno è riuscito a, che nessuno è riuscito a compiere. Mi date altri 10 minuti o devo finirla? Sì, no, perché allora adesso vi faccio vedere qualche risultato che è venuto fuori da quando si è abbandonato il paradigma razziale per cominciare a considerare la diversità umana in maniera diversa. Questa è una mappa recente in cui ogni popolazione è rappresentata da una torta e i colori diversi rappresentano delle diverse varianti del DNA, in questo caso nel cromosoma Y. E come vedete il quadro è molto complesso, perché nell'Africa al di sotto del Sahara è presente questo colore rosso che altrove non c'è, ma a nord del Sahara tutte le popolazioni sono un mosaico di componenti molto molto diverse, in proporzioni diverse. Quindi le nostre differenze derivano dal fatto che varie caratteristiche sono rappresentate in proporzioni diverse, ma non c'è un colore che è soltanto degli slovacchi, un colore che è degli arabi, un colore che è degli egiziani. Siamo tutti fatti con un vestito d'Arlecchino in cui prevale a volte un colore, a volte un altro. E l'altro passo avanti importante è stato capire che queste differenze biologiche che esistono e che noi vogliamo studiare perché sono loro che ci permettono di ricostruire la storia evolutiva della nostra specie, spesso dipendono anche da caratteristiche culturali. La cultura influenza i nostri geni. E l'aspetto della cultura più facile da studiare, e non a caso quello che è stato studiato per maggior tempo, sono le differenze linguistiche. Questa è una mappa delle principali famiglie linguistiche dell'umanità. Qui si aprirebbe un capitolo molto complicato perché i linguisti non sono d'accordo fra di loro, c'è chi dice che ci sono 600 famiglie linguistiche diverse. I litigi tra genetisti e linguisti sono entrati ormai nella leggenda. Però a partire dagli anni 80 c'è stato qualcuno che ha preso molto seriamente queste mappe e ha cercato di sovrapporre alle mappe culturali, le mappe linguistiche e le mappe genetiche. E quello a cui io sono più grato è Robert Sokal, con cui ho lavorato per anni negli anni 90, e quella che vedete sotto è una foto in qualche modo storica, almeno per me che ne faccio parte, perché quello è un meeting a Cambridge del 97 in cui c'erano gli archeologi, qui rappresentati da Colin Renfrew, gli antropologi, Marta Mirazon-Lahr, i genetisti, qua ci sono io, ce n'erano anche di più bravi di me, e poi Svante Pebo, che è la figura più importante, direi, nella ricerca sull'evoluzione umana al giorno d'oggi, che oggi dirige un centro di ricerca a Lipsia in Germania, che ha veramente dato una spinta formidabile alle nostre conoscenze, studiando anche il DNA antico, studiando il DNA proveniente da resti fossili. Non sempre è facile parlarsi tra persone che hanno delle basi culturali molto diverse, però ci si sta provando. E qui vi faccio vedere una cosa che è venuta fuori qualche anno fa lavorando con una mia collaboratrice francese che si chiamava Elise Bell. Questo è uno studio di dove sono le principali differenze genetiche dell'umanità rappresentate da queste linee nere scure. E quello che si vede è che queste linee nere scure non rappresentano i confini tradizionali fra le razze, ma a volte separano popolazioni che sono molto molto vicine fra di loro. Queste due popolazioni che vedete separate da una linea grossa si chiamano Surui e Caritiana, sono due popolazioni del Brasile e sono due gruppi che vivono a 20 km di distanza e non si parlano. Non si parlano, qualche volta si ammazzano fra di loro, non si mescolano mai. Quello che queste linee ci dicono è che dove ci sono dei fattori di isolamento, che possono essere l'isolamento fisico del mare, l'isolamento culturale fra queste due popolazioni, l'Himalaya qua o il deserto del Sahara, le popolazioni si differenziano, ma si differenziano in una maniera che non ha niente a che vedere con le classificazioni razziali di un tempo. E l'altra cosa che questo studio dice è che se fate dei confronti, buttando a caso un bastoncino sulla mappa e confrontando le popolazioni che trovate ai due lati, è che quando due popolazioni parlano lingue differenti, sono mediamente più diverse di popolazioni che stanno alla stessa distanza geografica e parlano la stessa lingua. Quindi le barriere linguistiche hanno in qualche modo influenzato la tendenza delle persone di mescolarsi, di spostarsi da un posto all'altro. Sembra logico, però dimostrarlo non è stato tanto, tanto banale. Si può andare anche oltre, si può discutere, per esempio, utilizzando i dati genetici, di quale sia stata l'origine delle lingue indoeuropee. Tema quanto mai appassionante, a cui accennerò solo in maniera molto, molto rapida. La teoria classica che è attribuita a questa archeologa lituana che si chiamava Maria Gimbutas era che il punto d'origine delle lingue indoeuropee fossero le steppe del Mar Caspio e del Mar Nero, e da lì, attraverso una serie di ondate che vedete rappresentate da queste freccette, le lingue indoeuropee si fossero diffuse in tutta l'Europa. Il problema è che di queste migrazioni di cui parla la Gimbutas gli archeologi non hanno traccia. E allora, a un certo punto, Colin Renfrew, questo simpatico e intelligente archeologo inglese che fino allora aveva lavorato sulle Cicladi, insomma si occupava di Grecia, a un certo punto legge degli articoli di Cavalli Sforza, legge degli articoli di genetica, nei quali si sostiene che c'è stata una grandissima migrazione dal Medio Oriente in Europa col Neolitico. Quindi 10.000 anni fa, quelli che hanno inventato l'agricoltura nel Medio Oriente hanno portato per migrazione verso l'Europa dell'Ovest e del Nord le loro tecnologie e i loro geni. E Renfrew dice: ma perché non anche le lingue? Che motivo abbiamo di inventarci altre migrazioni quando sappiamo che c'è stato un fenomeno di migrazione massiccio che ha coinvolto tutta quanta l'Europa per 5.000 anni? Maria Gimbutas aveva un temperamento difficile, ce ne ha dette di tutti i colori, e è chiaro che chi come me viene dalla genetica è stato molto contento di poter cominciare a parlare con archeologi che prendevano sul serio i nostri risultati. Il risultato più bello di tutti, secondo me, è di 2 anni fa, l'ha ottenuto questo biologo neozelandese che adesso si occupa di lingue, ed è un albero delle lingue indoeuropee basato su delle differenze tra le parole che vengono trattate come vengono trattati i caratteri biologici quando si fanno gli studi di evoluzione. E quello che salta fuori è che c'è un primo ramo, vedete, questo è un albero evolutivo, quindi qui c'è il passato, 8.000 anni fa, qui c'è il presente, le lingue anatoliche e il tocariano sono estinte oggi, ma la prima separazione dovrebbe essere fra l'anatolico e tutte le altre lingue, e qui sulla mappa, con delle tecniche che non vi sto a descrivere, Russell Gray ha individuato la regione di massima probabilità in cui dovrebbe essere avvenuta questa separazione. E come vedete è proprio in Anatolia, e da lì si dovrebbero essere poi diffuse le lingue indoeuropee verso ovest e verso est. Non vi dico che sono sicuro che è andata così, vi dico però che queste interazioni fra linguisti, biologi evoluzionisti e archeologi stanno portando ad una comprensione molto maggiore di quello che era il nostro passato, e anche ad escludere, per esempio, delle ipotesi che non si sono rivelate realistiche. Tutto bene, quindi la storia è finita? No, la storia non è finita. Guardate, questa è la mappa di Cavalli Sforza che indica la diffusione del neolitico, dei geni neolitici a partire dal vicino oriente verso il nord, verso l'ovest dell'Europa. Dicevo che non va tutto bene, però, insomma, anche se chi si occupa seriamente di questi argomenti ormai si è convinto ad abbandonare il concetto di razza per l'uomo, il concetto di razza è molto molto radicato in vasti settori dell'opinione pubblica americana. Questi due signori sono un sociologo, Arthur Jensen, e un biologo, Philip Rushton, che ha dedicato tutta la vita, adesso riderete ma è la verità, a confrontare lunghezze del pene con quozienti di intelligenza, arrivando alla conclusione che gli asiatici sono molto intelligenti, ma per l'altro fondamentale non hanno delle prestazioni degne di nota. Gli africani hanno dei peni di dimensioni cospicue, ma purtroppo non hanno il quoziente di intelligenza. In mezzo, in miracoloso equilibrio, dotati di entrambe le abilità, indovinate chi c'è? Ci siamo noi. Ha pubblicato libri, ha pubblicato un sacco di robe. Questa gente qua continua a tirare fuori il concetto di razza, e hanno inventato una parola che a mio parere è molto pericolosa, nel senso che è molto efficace nella polemica. Hanno cominciato a chiamarsi realisti razziali. Quindi il realismo razziale significa dire, vabbè, le cose di cui vi ha parlato Barbujani oggi sono tante chiacchiere, tanto un negro è un negro, lo si vede, sono meno intelligenti di noi e se per caso avete avuto un negro alle vostre dipendenze capite di che cosa sto parlando. Questa frase nella sua brutalità è stata pronunciata da Jim Watson, quello di cui parlavamo prima, ed è per questo che questi due hanno chiamato questo loro articolo del 2008 la verità più sconveniente di Jim Watson. Ma chiamare se stessi realisti razziali significa naturalmente dire che chi non è d'accordo con te non è realista, non è realista. E nella polemica sui giornali queste posizioni possono avere il loro peso. Quindi la partita non è conclusa, continua ad andare avanti anche adesso e continua quando io faccio le mie chiacchierate, perché spesso tra il pubblico c'è uno che alla fine viene a dirmi però un negro è un negro e se io fossi come lui mi chiamerebbero negro. Questo concetto riesce difficile da scardinare, è un po' come quando a Galileo gli andavano a dire ma la Terra è piatta, guardati intorno, insomma il senso comune è riluttante ad accettare certi cambiamenti. Dicevo prima che il più bravo di tutti però era Charles Darwin. Charles Darwin che è riuscito a costruire la spina dorsale della biologia contemporanea in un momento, 1859 è il suo libro più importante, L'origine delle specie, in cui di biologia non se ne sapeva quasi niente, eppure lui traccia le linee che costituiscono tuttora l'ossatura fondamentale della biologia. Molto prima di Einstein, che l'ha fatto per la fisica, Einstein e Bohr, molto prima che Wegener si inventasse la deriva dei continenti, che è la base della geologia, come ha fatto Darwin? Era bravissimo, era intelligente e aveva una formidabile capacità di comprendere i limiti delle conoscenze scientifiche. Perché anche se noi produciamo migliaia di genomi completi, la scienza non è una cosa che ci dà delle certezze. La scienza ci dà dei dati che noi colleghiamo tra di loro attraverso un processo intellettuale e come tale suscettibile di errori. Ci sono dei modi per correggere questi errori, ma non abbiamo verità assolute. E Darwin questa cosa l'aveva capito benissimo. E guardate, queste sono le cose che scrive non nell'Origine delle specie. Nella sua opera principale Darwin si astiene sostanzialmente dal parlare dell'uomo. Ha paura. Paura perché ha intuito che sta toccando degli argomenti che susciteranno delle reazioni molto virulente. Capisce che non si parlerà di biologia, non si parlerà di scienze naturali, ma si parlerà di altre cose di cui lui non vuole parlare. E quindi nel suo libro più importante praticamente non dice niente sull'uomo. Ma nel 1871 scrive un altro libro che si chiama L'origine dell'uomo e la selezione sessuale. E lì non può non parlare dell'uomo. E guardate cosa dice a proposito del tema di cui abbiamo parlato oggi, il numero variabile delle razze umane secondo i vari scienziati. Qui dice: ogni naturalista che ha avuto la sfortuna di descrivere un gruppo di organismi altamente variabili ha incontrato dei casi, e parlo per esperienza, simili a quello dell'uomo. E se non vuole dire delle sciocchezze, se è dotato di cautela, finirà per riunire tutte le forme che sfumano l'una nell'altra, sfumano la parola di Livingstone, ricordatevi, in una stessa specie, perché dirà a se stesso che non ha alcun diritto di dare nomi a oggetti che egli stesso non può definire. E mi piace concludere con queste frasi di grande saggezza da parte di Charles Darwin. Grazie. E quindi questo era Guido Barbujani, come avete sentito. Non ho messo la traccia integrale perché da qui in poi, insomma, mi sono voluta fermare qui, questa era la sua parte di, diciamo, monologo e mi sembrava sufficiente. Allora, vi dico tra l'altro che la musica che avete sentito sotto è un gruppo che ho appena scoperto, si chiamano Carioca ed è un gruppo giapponese che mi sembrano fantastici, non so voi cosa ne pensate ma mi sono piaciuti un sacco, e era l'album Dusk, scritto con la U, Dusk K, e poi riattaccato con un altro loro album che è Kartik, tutte K, gli piacciono le K a quanto pare, molto molto molto carini devo dire. Quindi appunto questo era Guido Barbujani, come vi dicevo Ora, tra pochissimo vi manderò invece un altro video del canale YouTube da Zibao. Anche in questo caso non ve lo mando per intero, ma insomma una buonissima parte. Ho tralasciato l'ultima parte non perché non fosse interessante, ma perché poi diciamo iniziavo a parlare di altre cose più strettamente un po' più geopolitiche che appunto, ripeto, super interessanti, ma non le volevo inserire in questo contesto. Prima di questo, però, vi manderei un brano musicale di cui vi dirò dopo il titolo, perché così ogni tanto si cambia. Buon ascolto, quindi ci risentiamo fra pochissimo. abbiamo un po' alzato i BPM e lo scolettamento, ma almeno così magari vi siete un po' più riposati, rilassati. Questo era I Want You, She's So Heavy di Groove Collective, e vabbè, l'avete penso riconosciuto, è un bel remixore della canzone dei Beatles. Tra l'altro, dovete sapere, io sono un enorme fan dei Beatles, sono uno dei miei gruppi del cuore, nonostante non vi abbia mai messi, anzi, addirittura vi metto i remix, cioè, insomma, sono una fan un po' strana. Vabbè, ma non importa. Dunque, allora, sì, quindi ci avviamo verso l'ultima parte di questa puntata, ovvero in cui vi mando, quindi, una buona parte del video del canale da Zibao. Buon ascolto, ci risentiremo solo alla fine, giusto per i saluti. Ciao ciao! Il tema di questo video, per quanto possa sembrare provocatorio, credo sia importante e parte da una domanda, e cioè, ma quanto è razzista il discorso che oggi facciamo sulla Cina? E razzista intendo non in senso di giudizio di valore, ma in senso tecnico. Cioè, il discorso che oggi facciamo sulla Cina, quanto e cosa ha ereditato dal periodo dichiaratamente razzista della scienza, dell'antropologia o della filosofia europea, il cosiddetto razzismo scientifico del XIX secolo? E sono riferimenti dei quali spesso non siamo pienamente consapevoli. E ad esempio, l'altra settimana ascoltavo un video di Joe Pizzi sulla Cina, ed è un video in cui utilizza con molta facilità riferimenti terminologici al concetto di razza gialla, i gialli, così come chiama i cinesi nel video, che è evidentemente un concetto che nasce col razzismo, con l'idea delle varie razze alle quali gli europei hanno associato un colore, e ai cinesi è toccato il colore giallo. Ma questo termine, i gialli, solo all'apparenza è nato con l'intento di descrivere il colore della pelle. Nella sostanza è nato con l'intento di definire i cinesi o gli orientali come una razza inferiore e pericolosa. E quindi in questo video parleremo del concetto di pericolo giallo, l'idea che l'Oriente sia una minaccia per la civiltà occidentale, che è un concetto che si sviluppa dalla fine dell'Ottocento in poi per arrivare poi tutto sommato fino ad oggi. Ma quando parliamo di razza gialla, parliamo più nello specifico della razza gialla mongoloide. E per definire la sua inferiorità, questa razza gialla è stata associata alla sindrome di Down, i mongoli o i mongoloidi, così come venivano chiamati nel passato, con una concettualizzazione abbastanza curiosa e delirante di cui parleremo nel video. Insomma, il termine giallo, negli scopi con cui è nato, è assolutamente paragonabile alla N-word, a quella parola che manco si può dire qui sui social, mentre giallo invece a quanto pare lo si può utilizzare per rendere più divertente un video. Quindi di tutto questo vale la pena parlarne, per cui partiamo proprio da questo, cioè cerchiamo di capire chi e perché ha colorato di giallo i cinesi. Quindi parliamo un po' di questi gialli. Fino al 1800 i cinesi non erano considerati gialli dagli europei. L'Europa del Medioevo aveva un'idea molto vaga di ciò che fosse l'Oriente e delle leggende ispirate ad alcuni passi della Bibbia e soprattutto dall'Apocalisse raccontavano come a Oriente abitassero popolazioni mostruose e demoniache, le popolazioni di Gog e Magog, i nemici del popolo di Dio. E così si diffusero teorie millenaristiche secondo le quali ci sarebbe stata la fine del mondo quando i popoli diabolici di Gog e Magog dall'Oriente avrebbero travolto i popoli cristiani, spinti da Satana in persona. E in questo contesto possiamo immaginare con quale sorpresa gli europei cominciarono a leggere i primi resoconti dei viaggiatori medievali, che parlando delle popolazioni del Katai, cioè della Cina o anche del Giappone, le descrivevano come popolazioni bianche, così come è stato scritto in una edizione del libro di Marco Polo. Poi i secoli vanno avanti e i viaggi si intensificano e di nostra qualità venivano definiti cinesi nel 1500 da Andrea Corsali, un navigatore fiorentino al servizio dei portoghesi. E qualche anno dopo, Transilvanus, segretario imperiale del Sacro Romano Impero, descrive i cinesi come un popolo di pelle bianca, somigliante ai nostri tedeschi. Così come anche il missionario portoghese Gaspar de Cruz descriveva le donne cinesi come candide e paragonava nuovamente i cinesi ai tedeschi. Ma presto ci si accorse che la Cina è vasta, il colore della pelle cambia da regione a regione, e così nel compendio di viaggio di Giovanni Battista Ramusio, un geografo e diplomatico veneziano, a metà del 1500 viene scritto che i cinesi meridionali sono pallidi piuttosto che bianchi, e la distinzione tra nord e sud venne notata anche dal gesuita francese Dugirac, che descrive i cinesi del nord come gente di pelle bianca, e quelli del sud, invece i cantonesi, erano descritti come bruni o bruni dorati, come gli spagnoli, diceva lui. E anche nel XVII secolo, tra i testimoni oculari europei, tra cui vari missionari gesuiti, prevale l'idea che i cinesi, ad eccezione dei cantonesi, fossero bianchi come gli europei. Le notizie che parlavano di carnagione giallastra erano molto rare. Sino alla metà del XVIII secolo, la stragrande maggioranza dei testimoni oculari europei dà per scontato il fatto che gli abitanti della Cina, con l'eccezione dei cantonesi, fossero bianchi. E naturalmente si erano accorti che la carnagione variava da regione a regione, ma la paragonavano alle variazioni presenti anche in Europa. Il nord della Cina era come la Germania e il sud invece era come la Spagna. Ma siamo in un'epoca in cui, benché alcuni europei si sentissero bianchi, il contrasto era principalmente con gli africani e il concetto di razza bianca era molto poco diffuso ed era del tutto assente il concetto di razza gialla. E ad esempio un albo dei membri del Senato conservatore napoleonico descrive i 104 senatori francesi e solo due di loro sono detti bianchi. 35 sono detti bruni, 33 chiari e 2 sono detti giallognoli, che era un colore che quindi poteva essere associato anche alla pelle degli europei. In altre parole, se alcuni cinesi erano gialli, era perché avevano la pelle chiara come gli europei e non perché fossero ciò che noi oggi chiameremmo persone di colore. Ma in generale c'era poco accordo su quale fosse esattamente il loro colore, anche perché prima della fine del XVIII secolo non c'era alcun desiderio sistematico di classificare le persone in base a ciò che noi oggi chiamiamo razza. Anche se si era già fatta strada l'idea che una pelle più chiara fosse associata alla cristianità e una pelle più scura invece fosse associata al diavolo. E quindi quando i missionari europei presenti in Cina dicevano che i cinesi avevano la pelle bianca, era anche un modo per dire che erano cristianizzabili. Allora da dove arriva sto colore giallo? Beh, inizialmente i popoli venivano divisi per continente, con suddivisioni proposte dai geografi, ma queste suddivisioni sembravano non essere in grado di descrivere propriamente le differenze che i navigatori riscontravano in Asia, dove non solo le differenze tra indiani e cinesi sono evidenti, ma persino le differenze tra un cinese del nord e un cinese del sud. Insomma, occorreva un nuovo modo per suddividere i popoli. E fu il medico e viaggiatore francese François Bernier a usare per la prima volta il concetto chiave di razza in senso moderno per indicare la divisione tra gruppi umani. E nel 1684 esce il suo trattato intitolato Nuova divisione della terra per le diverse specie o razze degli uomini che la abitano, ed è il primo tentativo di ordinare le nuove conoscenze sulle terre d'oltremare e sui loro abitanti in un sistema razionale e scientifico. Perché c'è una cosa che spesso dimentichiamo di dire sul razzismo, cioè in un certo senso è stato anche un impianto teorico progressista, e questo forse può sembrare strano, ma prima delle teorie scientifiche sulla razza, la concezione dei popoli e la loro evoluzione era legata allo schema biblico o all'idea che il corpo fosse un fardello poco indicativo sulla vera natura delle persone, una vera natura che invece sta tutta nell'anima. Ma a un certo punto cominciano invece a fiorire teorie differenti, che cercheranno nelle caratteristiche fisiche delle persone delle informazioni sulla loro natura, delle gerarchie delle razze, o le teorie di Lombroso basate sulla fisionomica, e quindi sull'idea che la forma del volto di un individuo potesse dire qualcosa sulla sua natura. Cioè, se hai la faccia in un certo modo, allora sei un criminale, pensava Lombroso, e questo va a scalfire il primato dell'anima, e l'idea che il peccato risieda nell'anima corrotta. Da allora in avanti anche il corpo poteva essere considerato indice della natura e del carattere di una persona, e questo in qualche modo è stato un passo in avanti. Inizialmente la nuova categoria della razza non implicava ancora alcun giudizio di valore in senso morale, ma per quasi un secolo dominò il concetto di razza usato prevalentemente ai fini di una classificazione scientifica dell'umanità. E per François Bernier le razze erano 4 o 5, e nella prima di queste razze erano incluse gli europei, ma anche gli abitanti del Nord Africa, Africa o gli abitanti di parte dei territori asiatici, tra cui l'India e la Persia. E infatti, come abbiamo detto, il criterio di classificazione non era più di tipo geografico e continentale. Ma a noi interessa soprattutto la terza delle razze di Bernier, che includevano anche le regioni orientali dell'Asia, tra cui evidentemente la Cina. E questa razza era descritta come certamente bianca, con individui dal volto piatto, dal naso schiacciato, occhi a mandorla, e il colore della pelle, per quanto fosse un criterio importante, non era affatto decisivo nella descrizione della razza, e in ogni caso i cinesi non erano ancora stati colorati di giallo. A giocare un ruolo chiave in tutto questo sarà Carlo Linneo, il naturalista svedese che inaugurò un metodo scientifico rivoluzionario, incorporando l'umanità nel regno animale, e fu il padre della moderna classificazione scientifica, nonché l'uomo che coniò il termine Homo sapiens. E oltre a questo, fu sostanzialmente lui il primo a colorare di giallo i cinesi. Linneo irruppe sulla scena internazionale con il suo Sistema Nature del 1735. Inizialmente, nella sua nuova tassonomia umana, basata ancora sul vecchio metodo geografico, individuò quattro specie: una bianca, cioè l'europeo, una nera, legata all'Africa, una rossa in America, e l'asiatico invece era definito fuscus, un termine molto vago che potrebbe essere tradotto come marrone, oscuro, o un termine che in passato era anche stato associato da altri studiosi ai nativi americani. Fuscus era estremamente vago, sintomo della difficoltà di decidere esattamente di che colore fosse la pelle dei cinesi o degli abitanti dell'Asia orientale. Ma la tassonomia di Linneo subisce un'importante modifica nella sua decima edizione, pubblicata nel 1758. Qua invece che Fuscus, gli asiatici vengono chiamati per la prima volta Luridus, che è un colore e può essere variamente tradotto come giallo o giallo pallido, giallastro, semplicemente pallido, pallido mortale o pallido spettrale. E nel latino classico luridus era spesso un termine peggiorativo, di solito con connotazioni di orrore, di bruttezza o di pallore. E Linneo, consapevolmente o meno, fornisce un termine cromatico che non è semplicemente una sfumatura intermedia tra il bianco e il nero, ma era specificamente in grado di suggerire un colore di cattiva salute e di malattia. Linneo era un medico e nel discorso medico la pelle gialla era sempre stata strettamente associata all'ittero. E anche in quanto colore della bile, il giallo era generalmente associato a un temperamento focoso e collerico. Insomma, malattia e pericolo. Questo era ciò che il colore giallo evocava, e inizia ad abbozzarsi l'idea del pericolo giallo, un'idea destinata ad avere molto successo. E anche se il Luridus di Linneo ebbe vita breve, tanto che nelle edizioni, nelle successive traduzioni in tedesco o in altre lingue, si tornò presto al marrone, al Fuscus della prima edizione, con ulteriori spiegazioni che precisavano come i cinesi fossero in realtà bianchi, con guance rose, e i giapponesi invece fossero più giallastri. Ma nonostante questo, il giallo era ormai stato scientificamente sdoganato ed era destinato ad affermarsi come razza. E il contributo maggiore a tutto questo non lo si deve a un viaggiatore o al direttore di qualche accademia scientifica, ma lo si deve a un filosofo, a Immanuel Kant, che è a conti fatti l'inventore della razza gialla. Nelle sue lezioni del 1775, intitolate Delle diverse razze umane, Kant propone una distinzione in quattro razze, cioè i primi sono i bianchi, nei quali annovera persino i persiani e i turchi, oltre che gli europei, la seconda razza non la si può dire, è la parola con la N, e la terza è la razza unica, che racchiudeva diversi popoli dell'Asia centrale, mentre la quarta razza era la razza indostanica, cioè l'India, ed era proprio quest'ultima ad essere definita la razza gialla. E i cinesi, che Kant chiamava gli indiani orientali, erano considerati una semirazza, derivante dalla mescolanza tra indiani e unni. Insomma, per Kant la razza gialla vera e propria era quella degli indiani. E insomma, si può dire che dai primi viaggi di Marco Polo fino al tardo 1700, il giallo o la razza gialla non era riferita direttamente ai cinesi, se non in rari casi. Ma poi, come sappiamo, a un certo punto le cose sono cambiate, e all'improvviso gli europei arrivarono a concordare sul fatto che i cinesi sono gialli, ed entriamo così nel secolo in cui il concetto di razza diventa a tutti gli effetti un concetto razzista. Il giallo si impose non tanto per il suo colore, ma per ciò che rappresentava, cioè malattia e collera, e quindi pericolo. E se pensate che associare il colore dell'itterizia ad un intero continente sia un po' eccessivo, beh, il vero capolavoro lo fece John Landon Down, cioè il medico britannico conosciuto per essersi occupato della sindrome che poi ha assunto il suo nome, cioè la sindrome di Down. Oggi sappiamo essere causata da una anomalia cromosomica, ma John Down ebbe l'idea di raggruppare i suoi pazienti secondo una classificazione razziale, decisamente molto strana se pensiamo che tutti i suoi pazienti fossero della stessa razza, cioè della razza bianca. E quindi cosa c'entrano le razze? Beh, a prima vista nulla, ma nella sua idea la malattia era dovuta ad una regressione razziale, cioè al fatto che la sindrome portasse un bianco che ne era affetto a regredire nell'evoluzione delle razze, cioè a tornare indietro di una tacca diventando di razza mongola. Questa nuova razza era stata inventata da John Friedrich Blumenbach, uno dei tanti che si dilettava nell'irrisolvibile problema di capire di che colore fossero i cinesi e di quante fossero le razze umane, e a fine 1700 aveva teorizzato la razza mongoloide, definendola razza gialla, e ci mise dentro l'estremo oriente. E l'abbinamento tra il colore giallo e il concetto di razza mongola è un abbinamento abbastanza arbitrario, ma per quanto arbitrario funzionò alla perfezione, perché così come il giallo evocava malattia e pericolo, anche il concetto di razza mongola richiamava le grandi espansioni di Gengis Khan e quindi l'idea di un popolo pericoloso, il pericolo giallo. Esatto, un sacco di gente gialla. Ma prima di parlare del pericolo giallo, torniamo a John Landon Down e alla sindrome che stava studiando, e lui associò questa condizione alla razza dei mongoli, da un lato per la somiglianza che notava tra i suoi pazienti e i cinesi, cioè facce piatte, larghe, occhi obliqui come li aveva definiti, e pelle con una leggera sfumatura giallastra e sporca, diceva. E per John Down la sindrome cambiava persino il colore della pelle, ma non perché questo accadesse realmente. Per Down non si trattava solo di una questione di somiglianza, ma di un sistema naturale, di una degenerazione, di una retrogressione. E inoltre la lingua cinese all'epoca veniva definita come una lingua che assomigliava a quella dei bambini o a quella dei sordomuti, e questo fu un indizio in più che servì a confermare la teoria della regressione delle razze di Down. A mettere in crisi questa teoria fu il fatto che nel XX secolo si scoprì come anche i mongoli potevano essere affetti dalla sindrome di Down, e questo rese un po' difficile giustificare l'idea della regressione delle razze, perché se la sindrome funzionava così, allora il cittadino della Mongolia che ne era affetto avrebbe dovuto regredire trasformandosi in un africano, evidentemente, cosa che però non accadeva, e questo chiaramente fu un duro colpo per questo concetto. E poi nel 1965 il governo della Mongolia ha presentato una protesta all'Organizzazione Mondiale della Sanità chiedendo gentilmente alla comunità scientifica di smetterla di dire stupidaggini, ma all'epoca molti ricercatori e clinici rimanevano comunque abbastanza titubanti, e fino al 1978 veniva ancora sostenuta l'idea che il mongolismo fosse il nome corretto per questa malattia. Ma tornando all'Ottocento, questa strana vicenda ci rivela il nuovo significato che aveva ormai assunto il concetto di razza. Cioè non era più solo un modo per descrivere il mondo, ma era anche un modo per gerarchizzarlo, per cercare delle gerarchie tra razze e per trovare la razza superiore, tutti concetti che nacquero nelle stanze degli studiosi europei del 1800 per poi esplodere nella loro incredibile violenza nel corso del 1900. Ma lo scopo di questo impianto teorico non era certo quello di portare l'Europa agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Lo scopo era decisamente più immediato, e cioè giustificare il colonialismo a livello morale. Nei secoli precedenti, come sappiamo, gli imperi europei si erano espansi in Asia, in Africa, nelle Americhe, in Oceania. All'apice della sua espansione controllava più dell'80% delle terre emerse. E quindi come spiegare in termini morali un fenomeno che come portata e come estensione non era mai esistito nella storia dell'uomo? La risposta a questa domanda non fu difficile da trovare. Le razze sono organizzate in un sistema gerarchico ed è giusto che la razza superiore controlli quelli inferiori. È giusto in termini morali, perché solo il controllo della razza superiore potrà portare al progresso delle razze inferiori. E dopo secoli di controllo da parte dei superiori, questa è la situazione negli anni 50 sull'aspettativa di vita nei vari continenti. E in generale i colonizzatori li trovate in verde, mentre in rosso trovate i colonizzati. Insomma, fu una catastrofe. E se guardiamo la Cina nello specifico, l'aspettativa di vita comincia ad aumentare solamente dopo il 1949, cioè alla fine del colonialismo e all'anno di fondazione della Nuova Repubblica, e anche questo smentisce in maniera abbastanza netta l'idea che i colonizzatori erano gli unici in grado di garantire il progresso per i colonizzati. Ma oltre al dovere morale di portare la civiltà e il progresso in giro per il mondo, gli europei avevano anche un altro importante compito, cioè quello di difendersi dal pericolo giallo. E questa espressione, il pericolo giallo, il terrore giallo, è sostanzialmente la formulazione ottocentesca dell'idea ben radicata nella cultura europea che la fine del mondo arriverà da Oriente. Già nel Medioevo i nemici del popolo di Dio abitavano un Oriente indefinito, dal quale sarebbero avanzati per distruggere la civiltà cristiana. Ma l'invenzione del pericolo giallo avvenne verso la fine dell'Ottocento, quando l'idea che gli asiatici orientali fossero gialli e pericolosi era ormai diventata un'idea onnipresente, concetti che ormai apparivano in ogni categoria immaginabile di scrittura, sia accademica che popolare. Il pericolo giallo incarnava ansie di varia natura, dalla paura dell'immigrazione di popoli dell'Estremo Oriente alla paura di una possibile aggressione militare dell'Estremo Oriente verso l'Occidente, o il timore per la competizione economica o per la degenerazione sociale se la cultura orientale si fosse diffusa in Occidente. Nell'idea del pericolo giallo risuonava il vigore religioso del predicatore avventista statunitense G.G. Rupert, che nel 1911 pubblicò il libro Il pericolo giallo, Oriente contro Occidente, una dissertazione basata sulla Bibbia e sulle parole degli antichi profeti per dimostrare che stava per esserci una lotta di potere tra Oriente e Occidente, una visione che contribuì ad alimentare la paura del pericolo giallo ottocentesco. Insomma, i popoli orientali di Gog e Magog, di cui si parlava già nel Medioevo, erano tornati. E poco importava che in quel momento fosse l'Occidente ad aver invaso l'Oriente tramite il dominio coloniale. In fondo il dragone cinese poteva solo essere momentaneamente sopito e pronto a svegliarsi per vendicarsi contro i popoli occidentali. La ribellione dei Boxer del 1900 provocò ansia per la potenziale esplosività di milioni di cinesi in un impero Qing ormai in rovina. I cinesi si stavano ribellando al colonialismo europeo, e la ribellione venne duramente sedata dalla cosiddetta Alleanza delle Otto Nazioni, che comprendeva Austria-Ungheria, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, cioè sostanzialmente i paesi del G7 di oggi, che allora come oggi intendevano loro stessi come l'alleanza dei paesi civilizzati, all'epoca anche colonizzatori, contro la Cina per contrastare il pericolo giallo. E l'icona più famosa di queste paure era un'incisione ampiamente diffusa del 1895 realizzata su disegno originale del Kaiser Guglielmo II di Germania, e l'Estremo Oriente era rappresentato da una statua di Buddha seduto in cima a una gigantesca nuvola di fuoco e fumo, ed era percepito come una fonte di pericolo imminente. E a sinistra dell'immagine invece dominava l'immensa valle europea e un gruppo di donne guerriere che rappresentavano le nazioni europee, che vengono chiamate alle armi dall'arcangelo Michele con una spada fiammeggiante. E nelle lettere allo zar russo, Guglielmo parlava di dover difendere l'Europa dalle incursioni della grande razza gialla, dalle incursioni dei mongoli e del buddismo, o dalle incursioni del buddismo, del paganesimo e delle barbarie. Ma il pericolo giallo non era solo la Cina, e nel 1905 sorse un nuovo pericolo giallo, cioè quello del Giappone, che alla conclusione della guerra russo-giapponese era uscito vittorioso, facendo temere la fine del controllo occidentale sull'Oriente. E tutto sommato Cina e Giappone si sono alternati in maniera quasi perfetta nel ruolo di pericolo giallo. A fine Ottocento il pericolo giallo era la Cina, a inizio Novecento era il Giappone, lo rimase almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, per poi tornare a essere la Cina il pericolo giallo con l'arrivo dei comunisti. Il Giappone in quel caso era invece un alleato, almeno fino agli anni 80 o 90, quando il crescente peso economico del Giappone fece discutere negli Stati Uniti sulla possibilità di una coming war with Japan, così come tra gli altri si titolava un libro d'inizio anni 90 del 1900 che parlava di una inevitabile guerra tra Giappone e Stati Uniti. E in quel periodo politici statunitensi si facevano riprendere mentre distruggevano prodotti giapponesi, e ondate di nippofobia o pregiudizio contro i giapponesi prendevano di mira i giapponesi che vivevano negli Stati Uniti, arrivando anche ad aggressioni e a volte anche ad omicidi. Poi la guerra vera e propria non ci fu, bastò una guerra economica, e così oggi il pericolo giallo è tornato a essere la Cina, la vera minaccia per la nostra civiltà e per il mondo. Ed eccoci quindi giunti alla fine di questa puntata. Allora, spero che, diciamo, innanzitutto spero che abbiate apprezzato questi contenuti che vi ho portato e spero che sicuramente non avete trovato il nesso con gli argomenti di cui di solito parlo su Nervature, ma non era necessario trovarlo in questo caso. Così, mi sono permessa questa libertà, diciamo, espressiva. Però, no, invece spero che abbiate visto il nesso fra i due contenuti, quindi la conferenza di Guido Barbugliani e invece il video del canale Da Zibao, perché quello che mi interessava era fornire due aspetti diversi dello stesso argomento, quindi l'analisi un po' più scientifica, diciamo, del concetto di razza, che cos'è, che cosa non è, perché non è giusto parlare di razza e quindi anche tutta l'analisi genetica che avete sentito sul DNA, eccetera, eccetera. Ora, vabbè, solo un contenuto audio, c'erano anche delle slide sotto che facilitavano sicuramente un po' la comprensione, ma penso fosse comunque capibile anche solo dall'audio, con invece poi un punto di vista un po' più culturale di quello che è la razza o comunque è stato il concetto di razza, e come vi dicevo già prima, raccontato però da un punto di vista veramente sostanzialmente diverso, quindi dal punto di vista un po' più, diciamo, orientale. Niente, quindi nella pagina del podcast vi metterò sicuramente tutti i riferimenti a questi contenuti che vi ho fatto sentire. Direi quindi sono arrivata, anzi ampiamente, al tempo a me dedicato, quindi ottimo lavoro anche per questa puntata odierna del lunedì 12 febbraio 2024. Già. Bene, vi saluto quindi con un ultimo pezzo. Mi piacerebbe però rimandarvi un pezzo per Benino che si senta bene, non solo di sottofondo, sempre del gruppo che abbiamo già sfruttato in questa puntata, ovvero il gruppo Carioca giapponese, per l'appunto. Io vi giuro, cioè, non è che me lo sono scelto, non è che mi sono andata a cercare un gruppo orientale, cioè, vi assicuro che mi era arrivato fra i suggeriti di YouTube, quindi forse mi conosce molto bene YouTube. Questo può essere molto plausibile. Dunque, quindi vi mando un ultimo brano loro, che è Double Rainbow. Vi dico quindi buonissimo ascolto e con me ci risentiamo lunedì prossimo sempre con Nervature, sempre alle 19, ma rimanete tutte connesse su Radio Wombat, mi raccomando, per le trasmissioni che seguiranno. Oggi potrebbe esserci, non so se Le Porte di Tannhäuser oppure la di nuovissimo iniziata Slick Chick, forse Porte di Tannhäuser però stasera, quindi se volete sapere un po' di fantascienza e simili, rimanete mi raccomando connesse su Radio Wombat e anche per ovviamente sentire le nostre canzoni di Bobina. Buona serata a tutte e tutti, ci risentiamo quindi lunedì prossimo.